America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Baskin Robbins Cake, un ritornello, una pubblicità televisiva di una delle torte più vendute in America e un po' un simbolo di quello di cui vi voglio parlare oggi, sempre nel contesto della nostra trasmissione, quando ci occupiamo di solo andata, di coloro che dall'Italia a un certo punto decidono di mollare, di abbandonare e di venire in America. E la storia di oggi è una storia molto particolare, la storia di Sissy Lexiel, che a un certo punto da Milano, dove faceva una vita straordinariamente agiata, dove era editore di magazine e non aveva problemi di nessun genere, ha deciso di mollare tutto per seguire sua figlia, che ha pensato bene di trasferirsi all'età di 18 anni a New York per studiare prima recitazione, poi per fare delle altre cose. Sissy Lexiel è in linea con me. Buongiorno Sissy, mi sente? Salve, buongiorno, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Allora, lei a un certo punto prende e viene a New York. Posso chiederle quanti anni ha Sissy? Guardi, ho appena festeggiato i 63 anni. Ecco, dunque lei non è un ragazzino in cerca d'avventura. Lei, no, credo, fra tutte le persone che noi abbiamo sentito nella nostra, diciamo, rubrica di solo andata, credo che sia una delle persone più anziane che ha deciso di venire qua. Cosa l'ha motivata, direi, al di là del fatto che sua figlia, la sua unica figlia, era venuta qui per venire in America? Ma semplicemente perché in Italia non avevo più stimoli, facevo una vita molto tranquilla, era sempre tutto uguale, e anche perché molto semplicemente, continuando a venire avanti in tre a trovare mia figlia, mi sono resa conto che negli Stati Uniti mi sentivo molto più libera. Non so, l'America ti dà un po' l'anonimato, ecco. Mi sono sempre sentita libera, come penso tutti appena arrivano a New York, camminano per strada e si sentono a casa propria. Ecco, questo fatto di sentirsi più libera qua che in Italia, lei in Italia aveva la sensazione di non sentirsi libera, cioè era una sensazione cosciente? Molto semplicemente il fatto che non importa il colore, l'età e la religione in questo paese. E sono tutti liberi di fare, di provare. Parlavamo di anziani. A 40 anni in Italia forse non trovi più niente, non fai più niente. Io avevo 58 anni e che cosa avevo dal futuro? Niente, non mi aspettavo più niente. A questo punto invece qui ho ricominciato tutto da capo e mi è piaciuto moltissimo, perché sei piena di stimoli, di entusiasmi e non stai lì a pensare alla pensione o inventi un'altra vita, un altro modo di vita, forse un po' più divertente. Torniamo un momento al discorso di libertà, perché è un tema ricorrente. Per esempio il nostro camionista Facchinetti, con cui abbiamo poi cominciato questo programma, un camionista che voleva venire a fare il camionista in America, perché dice che una volta ha guidato da Los Angeles fino allo Utah e guidando aveva sentito questo grande senso di libertà. Ecco, nella sua vita italiana qual è stata la cosa che l'ha più, diciamo così, fatta sentire poco libera in Italia? Ma non è una questione di poco libera, è il fatto che trovo che ci sia poca informazione nel riguardo delle religioni. Io sono di religione ebraica e dopo 40 anni che vivevo ancora a Milano c'era difficoltà ancora a capire che cos'era il mio capodanno ebraico. Io non ho mai mancato a fare gli auguri per Natale a tutti, ma è stato veramente, veramente rarissimo che qualcuno mi facesse gli auguri per il mio capodanno ebraico. Io mi sentivo a disagio in certe situazioni e qui invece assolutamente. E quando dice che si sentiva a disagio, in che modo? In che modo si manifestava questo? Ma certe volte con delle persone che non sapevano che io ero di religione ebraica sentivo delle battutacce terribili e questo mi ha dato noia, ma non vorrei sottolineare che è stato questo il motivo, anzi in Italia sono stata benissimo, ho vissuto alla grande, però questo era un punto di mancanza di informazione che secondo me mancava proprio alla base dalle scuole. Dunque lei arriva in America per seguire sua figlia Nicole, che fa la scuola di recitazione, e poi a un certo punto, dopo aver fatto avanti e indietro, decide, sì, di fermarsi. E la ragione per cui ho fatto sentire, l'avrà sentita anche a lei, il Baskin Robin, il ritornello all'inizio di questo dolce in America, perché lei a un certo punto, qui a New York, per puro caso, prepara una torta per sua figlia, qualcuno se ne accorge e ci racconti la storia. Niente, ho fatto assaggiare una mia torta che era caprese, è piaciuta. tutta e ho cominciato a distribuirla nell'Upper East Side e poi anche in qualche ristorante giù a downtown. Dunque, in Italia era editore di magazine, di giornali, faceva eventi, organizzava cose, eccetera, eccetera. Arriva a New York, dove riprende questo lavoro, fa l'editore, però improvvisamente cambia mestiere e diventa imprenditore e fa la torta, giusto? Ho incominciato a roulé, andare abbastanza velocemente, anzi, perché a New York quando incomincia a prendere una cosa va veloce, me lo richiedeva anche la pedicurista, per dire. Ma a quel punto lì dovevo fare una cosa molto più professionale, aprire una bakery, e lì mi sono un po' fermata perché mi sono trasferita in California e vorrei farlo qua invece. Quindi lei a 63 anni, dopo aver già fatto, diciamo, un balzo dall'Italia a New York, che diciamo non è normale, ha lasciato il suo mondo, arriva qui, si mette a fare le torte e poi improvvisamente va addirittura a Los Angeles, dove che penso... è il paese più bello del mondo per me. Ma lei aveva degli amici, dei parenti? Certo, ho più parenti qua, ho una zia, ho delle persone che conosco, e direi che non pensavo di incontrare delle altre persone di Milano qui. Ma e quindi lei, scusi, il suo obiettivo adesso qual è? Quello di fare le torte per i grandi attori, diciamolo? Anche questo, perché no? Anzi, direi proprio che me lo stanno richiedendo in questi giorni. È capitato a una persona che mi ha chiesto la sua torta, e poi adesso mi sto specializzando a fare le torte anche un po' più elaborate. Ecco, siamo partiti con la caprese. Che torte sta facendo adesso? Ah, non so, è mud cake, però io le faccio built, adesso le faccio all'americana, però col gusto italiano dentro. Il mud cake è un classico, lo raccontiamo cos'è questo mud cake? E farina e burro, è così. Però la mia caprese, quella che ha avuto più successo di tutto, e tuttora me l'hanno chiesta anche l'altro giorno, perché è leggerissima e non ha nemmeno la farina. E adesso cosa sta inventando per sfondare a Hollywood? Sto pensando a qualcosa di più particolare, molto italiano, ecco, ad esempio come la crema pasticcera che qui non usano, e sto facendo di queste cose qua. Sua figlia ha fatto la scuola di recitazione, no? È venuta qui per fare gli Strasberg Institute. Ecco, lei adesso è a Los Angeles, le manca sua figlia? È andata a Los Angeles perché pensa che magari la raggiungerà? Non c'è, mia figlia ama New York come se fosse l'aria, io amo Los Angeles, vediamo. Io qui vivo benissimo, tranquillamente, riesco a realizzare le cose che voglio, anche perché sono una creativa. Mia figlia, se vorrà, e qua è la benvenuta, posto ce n'è, se no mi scrivono tutti perché sono stata la mamma Sissi per tutti a New York, essendo l'unica mamma che si è spostata dall'Italia, però quando vogliono sono i benvenuti. Qual è la cosa che le piace di più dell'America? La libertà, e poi anche il fatto che tra i sogni del domani e i rimpianti di ieri ci sono le opportunità di oggi. Qui sono tutti col sorriso, e anche se c'è tutto questo caos, perché si vede che non c'è un'economia che sta andando male, però hanno tutti quest'area di positività. Io credo che la positività aiuti. Essere positivi nella vita aiuta, perché essere negativi certamente non ti porta da nessuna parte. Pensare che domani sia meglio di ieri o di oggi, perché no? Ecco, lei rimpiange di non esserci venuta prima? Sì, assolutamente. E che consiglio dai ai giovani che magari oggi ci stanno pensando? Devono seguire il cuore. Quando il cuore ti dice di fare qualcosa, devi farlo. Io stavo venendo in America, poi sono rimasta incinta di mia figlia e mi sono fermata giustamente per farla crescere insieme al suo babbo. Però, sinceramente, se fossi venuta prima, forse avrei fatto di più. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scrivetemi su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Solo Andata, biglietto di solo andata, sogno americano, sogno, devo dire, in generale di libertà. Dunque, restiamo sul tema sogni degli Everly Brothers. 1958, All I Have to Do Is Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.